te, salgo a te, te invoco. Yahvé. Il mondo non ti riconosce, ha sete, ha fame, chiede amor. Chi è ricco non dà niente per niente, chi è forte condanna a morte. Lavoro che diventa schiavitù, l'esilio non passò. Per questo grida, la gente grida, chiede amore, lotta, la gente lotta, yeah yeah yeah yeah. Grida, la gente grida, chiede amore, lotta, la gente lotta. Vieni Gesù, cammina con noi nella storia, ravviva la nostra memoria della liberazione, della liberazione, della liberazione. Mostri umiliato, perseguitato, o servo di Yahvé, dal dolore soffristi per amore. Nasce una cosa nuova, fiorisce nel deserto, sorge una speranza, la sentinella annuncia. Vieni Gesù, cammina con noi nella storia, ravviva la nostra memoria della liberazione, della liberazione, della liberazione. Mostri umiliato, perseguitato, o servo di Yahvé, dal dolore soffristi per amore. Fiorisce nel deserto, sorge una speranza, la sentinella annuncia.